Allora, io comincerei perché non abbiamo moltissimo tempo e la scaletta è molto densa e i temi anche molto complessi da trattare in 20-25 minuti, siccome sarebbe il caso che ci fosse un po' di dibattito, un po' di scambio, un secondo giro di interventi, insomma, iniziamo subito, non perdiamo tempo. Ma intanto un elogio e un ringraziamento a chi ha organizzato questa iniziativa, l'Associazione Oscara, la rivista Partecipazione e Conflitto, perché sono due termini, almeno per quanto mi riguarda, partecipazione e conflitto, che sono molto in controtendenza con ciò che avviene nel nostro continente e soprattutto nel nostro paese. E credo che, insomma, sia stata una scelta formidabile per una rivista specialistica che però si rivolge a un pubblico magari un po' più ampio di quello strettamente scientifico. Io non dirò molte cose perché insomma l'interesse oggi sta nell'ascoltare quanto hanno da dire i nostri ospiti. Io ho una formazione antropologica e mi sono formato alla fine degli anni 80 e negli anni 90, ci ho messo tanto a finire l'università, lo confesso, e in un periodo in cui nei dipartimenti di antropologia e di sociologia si spiegava in maniera anche abbastanza ossessiva la fine delle motivazioni etniche nella definizione dello spazio pubblico e politico. Si parlava addirittura di tramonto dell'opzione etnica o nazionale all'interno, diciamo, di un'Europa che veniva descritta come in piena liberazione da fenomeni che venivano descritti in qualche modo come tradizionali, primordiali, in cambio invece di una rivalutazione delle forme civiche di partecipazione, di costruzione dello spazio pubblico e politico. Devo dire che Hobsbawm, con la sua invenzione della tradizione, ha fornito argomentazioni che sono durate parecchio nei dipartimenti di antropologia, forse meno o non in maniera così stringente nel dibattito antropologico, sociologico e politologico, non solo in Europa, ma nel continente. E oggi, insomma, siamo in pieno revival, un termine che spesso viene usato come accezione negativa, ma che io credo sia semplicemente la presa d'atto di un fenomeno che è in espansione. Lo dice l'introduzione di Adriano Cirulli e di Daniele Conversi sull'ultimo numero di Partecipazione e Conflitto, che in qualche modo molti studiosi, molti analisti hanno la pessima abitudine di dare un giudizio di valore positivo o negativo nel descrivere i fenomeni di mobilitazione etno-territoriale, quindi tacciandoli di volta in volta di regionalismo, autonomismo, nazionalismo in senso più o meno positivo, piuttosto che invece fare quello che dovrebbe essere in qualche modo il loro mestiere, cioè spiegare intanto in cosa consistono queste mobilitazioni, quali sono le forme, i valori su cui si basano queste mobilitazioni, che non riguardano posti lontani. Insomma, basta vedere quanto sta accadendo non solo nel nord con il fenomeno della Lega, ma basta pensare a un rafforzamento delle identità nazionali e nazionalistiche in Sardegna o in altre regioni dell'Italia. Basti pensare a nuove forme addirittura che neanche credo possiamo definire etno-nazionalismi, ma addirittura mobilitazioni territoriali, che nel loro persistere acquisiscono anche una connotazione politica. Penso alla resistenza delle comunità della Val di Susa, oggi delle comunità della Campania impegnate contro le discariche e gli inceneritori, che a partire da una inesistenza di caratteristiche differenziali dal punto di vista storico, etnico, linguistico, ma per il fatto stesso di avere un territorio sulla quale costruire una mobilitazione, una rivendicazione, man mano credo stiano acquisendo delle caratteristiche che probabilmente vanno indagate, ma che credo siano un po' la normalità o comunque una tendenza in un'Europa in cui la politica, come l'abbiamo concepita nei decenni scorsi, sta di fatto scomparendo. Si continua a parlare di crisi delle ideologie, anche questa insomma è un'etichetta che forse andrebbe approfondita, però è vero che la crisi della politica nel senso classico storico sta lasciando spazio invece a una valorizzazione dei territori che spesso viene vissuta e descritta come negativa di per sé, no? Il famoso stigma del not in my backyard, per cui tutti i movimenti che si oppongono a qualcosa nel loro territorio vengono tacciati di essere localisti, egoistici, quando invece spesso qualche modo rappresentano forme innovative e inclusive, includenti di partecipazione e di conflitto, per questo prima mi riferivo al titolo della rivista. Naturalmente in Europa abbiamo degli esempi interessanti, quello basco probabilmente quello più interessante, almeno per quanto ci riguarda, ma le forme di queste rivendicazioni, di queste mobilizzazioni sono enormi, no? Si passa dalle devolution in qualche modo di tipo contrattuale, in assenza di un conflitto politicamente molto forte e violento, come può essere nel caso scozzese o in altri casi, a forme nuove che vengono affrontate in questo numero di partecipazione al conflitto, e credo che oggi alcuni accenni li faranno i nostri ospiti, i nostri interlocutori, e quindi credo che dovremmo rapportarci con questo tema senza tabù, no? In un paese in cui siamo abituati invece alla rimozione di questo tema dal dibattito non tanto accademico ma in qualche modo anche politico, scientifico, in un paese in cui sia i conservatori che buona parte dei progressisti ha sempre considerato la nazione e l'identità dei problemi di cui disfarsi, di cui in qualche modo privarsi. La critica Hobsbawm, quella classica, che insomma è facile tacciare le altre identità di essere inventate o strumentali perché la propria, come dire, in qualche modo si è affermata nel tempo e quindi può essere ammantata di veridicità o di normalità. Basta andare indietro con lo sguardo e tutte le identità, tutte le storie, tutte le nazionalità, le identità diventano in qualche modo, e su questo siamo d'accordo, credo, inventate, tra virgolette, no? Ma è un problema di sguardo dove viene posto. Io questo volevo dire, appunto, curiosità, naturalmente dibattito, perché su queste questioni che sono così importanti e complesse credo che non ci possono essere tifoserie o, no? o questioni date per scontate, ma dibattito, approfondimento, scambio di punti di vista, tenendo conto che è un tema fondamentale, importante, che probabilmente avrà sempre più spazio nel dibattito non solo scientifico ma politico, sociale e culturale. Quindi io darei la parola subito a Adriano Cirulli per l'introduzione e poi sentiamo gli altri ospiti. Bene, ringrazio Marco per queste parole iniziali. Io solo pochi minuti per porvi innanzitutto il saluto delle mie varie sfere di appartenenza, appunto per ragionare di identità e di polietricità dell'identità. Quindi vi saluto a nome dell'Associazione Culturale Oscara, del Dipartimento di Lingua e Cultura Basca dell'UCTER, e vi saluto anche a nome del resto della redazione di Partecipazione al Conflitto sparpagliata tra l'Italia e la Francia, e anche a nome di Daniele Conversi, che è l'altro curatore del numero monografico. Numero monografico che è un po' un convitato di pietra, perché fortunatamente questo nostro incontro è stato creato autonomamente dal contenuto del numero monografico della rivista. Il numero monografico è stata la scusa per cercare di creare all'interno di questo dicembre basco un momento di riflessione, incontro su questi temi. Teoricamente oggi devo essere presente fisicamente alla rivista con delle copie, però per problemi tecnici non c'è stata, e quindi è stata anche una scelta giusta quella di creare questo incontro non troppo legato al contenuto della rivista. Quello che voglio dire è che appunto l'obiettivo che ci eravamo posti con la rivista, che è una rivista sì scientifica, ma anche per i temi che tratta, aperta al confronto con associazioni e altre realtà non prettamente accademiche, è quella di dare uno stimolo di politica culturale, mettendo al centro un tema che in altri paesi è al centro del dibattito scientifico e non solo, anche politico, mentre l'Italia ha difficoltà ad affermarsi non solo nel dibattito politico ma anche a livello di scientifico. Ci sono vari ricercatori in giro per il mondo, italiani, che si occupano di questi temi, i temi delle identità etniche nazionali e delle politicizzazioni di queste identità, che ricercatori che vanno spesso all'estero perché in Italia non c'è spazio per trattare questi temi, perché dal mondo accademico, editoriale, se ti occupi di questi temi già sei politicamente inquadrabile, sei un filoleghista, non si riesce a capire che è un tema che è centrale, perché in tutta Europa ormai sono 20 anni che vari ricercatori hanno messo in evidenza che, contrariamente a quanto si pensava tra la fine 70 e i primi anni 80, questo tipo di mobilitazione e conflitti, cioè quelli etniche, regionaliste o nazionaliste, non sono sparite, non sono state spazzate via dalla globalizzazione, ma sono state riattivate, in parte trasformate dal processo di globalizzazione. E quindi in vari posti stanno emergendo, riemergendo, rafforzandosi vari movimenti e conflitti etno-territoriali, ed è il caso appunto che i politologi, gli antropologi, i sociologi, in quanto osservatori dei fenomeni politici e sociali, volgono il loro sguardo a questi fenomeni. Quindi il nostro obiettivo come rivista era quello di porre al centro dell'attenzione questi temi con un taglio altamente interdisciplinare, coinvolgendo varie prospettive, vari temi, vari casi, vari autori, perché appunto è un tema che interessa e richiede necessariamente il confronto interdisciplinare tra varie prospettive. Si parla di partiti e quindi è fondamentale il contributo dei politologi. Si parla di processi sociali perché le mobilitazioni avvengono non solo a livello politico ma a livello sociale, quindi anche un taglio più sociologico è importante. Riguarda il rapporto tra cultura e politica, quindi è fondamentale il contributo degli antropologi e di chi studia la costruzione dell'identità nel quotidiano e qual è il conflitto tra la costruzione quotidiana dell'identità e l'ipostatizzazione, l'oggettivazione dell'identità che viene fatta a livello politico. E quindi anche nel numero monografico abbiamo cercato di ospitare contributi che avessero appunto questo taglio variegato su questi temi. E anche in questo nostro incontro abbiamo cercato di tenere questo punto di vista, invitando relatori provenienti da vari ambiti disciplinari, non solo accademici, appunto per cercare di inquadrare questa tematica da più punti di vista, gettare il faro di luce da più angolazioni, cercando di inquadrarlo da più angolazioni e quindi cercare di mettere un po' più in luce queste prospettive diverse e questi punti di vista diversi. Adesso già ho detto abbastanza e possiamo iniziare con i nostri ospiti. Allora, iniziamo dalla specificità in qualche modo, il caso basco, che però forse, come dicevo prima, è più complesso e completo dal punto di vista delle varie forme che può assumere un conflitto etnico-territoriale e che oggi in qualche modo è rappresentato, no, in maniera privilegiata, perché c'è questo contributo dell'Associazione Euskara. Quindi Zoe Brai e poi Espea Leisaola. Grazie Marco e Adriano, ma è un piacere per me di stare qua. Mi scusate il mio italiano, è la prima volta che parlo, faccio una presentazione in italiano, quindi se mi esprimo male avete pazienza. Allora, Adriano mi aveva chiesto di parlare della relazione tra lingua e identità in paesi baschi, quindi farò un po' una spiegazione di cos'è la situazione in paesi baschi oggi e che sono le prospettive per il futuro, se c'è ottimismo o pessimismo o cosa. Quindi, per iniziare, cioè, ultimamente ci sono stati diversi eventi che mettono un po' in rilievo la situazione in paesi baschi. Cioè, da una parte c'è stato l'Euskera Reneguna, allora, il giorno per la lingua basca, non è mai una buona notizia quando bisogna avere un giorno in favore di una cosa come questo. Quindi questo sì, ancora è una preoccupazione in paesi baschi, la sopravvivenza, la rivitalizzazione della lingua. Poi c'è stato anche di recente il giorno dei diritti umani, purtroppo è stato marcato delle manifestazioni molto grosse in favore, cioè in appoggio a Aurore Martin, che è una ragazza di Iparralde, della parte francese dei paesi baschi, che è stata arrestata sotto, non so come si dice, un mandato europeo. Quindi c'è anche la preoccupazione sempre della libertà politica e cioè ancora c'è il problema dei partiti, certi partiti che sono sempre aboliti. C'è anche in Navarra di recente un partito che nemmeno ha avuto l'occasione di nascere, che già si è banato. E quindi ancora abbiamo anche questi problemi dei prigionieri baschi, cioè politici baschi che sono spostati a distanza dei paesi baschi. Poi c'è la terza preoccupazione che vedo io, è le possibilità di autonomia politica, soprattutto in Iparralde, dove abbiamo una situazione istituzionale molto debole che sta ancora cambiando. Ora si sta mettendo in questione lo status del PEI Basque, che finora cioè non è stato per niente soddisfacente come status, però almeno dà la possibilità di negoziazione innovative fra attori locali e la regione e lo Stato. E ora si sta rimettendo tutto questo in questione, forse di cancellare il Dipartimento Pirenei Atlantiche, di avere più un legame diretto con la regione Aquitaine, e dividere le diverse parti dei Varadi in comunità territoriali. Quindi che da una parte ci sarà certi vantaggi, però si perde questa unità territoriale di Varadi. Tornando al concetto di etnoterritorialismo, io c'ho un po' di difficoltà con questo termine, cioè si parla anche spesso di etnonazionalismo per parlare di situazioni come in Paesi Baschi. Dopo di aver un po' listato queste diverse preoccupazioni che abbiamo in Paesi Baschi, si può parlare piuttosto di etnonazionalismo nel comportamento delle autorità francese e spagnole. Quindi bisogna un po' discostruire cosa si intende per nazionalismo e etnonazionalismo. Quando si aggiunge questo aggettivo, si parla anche di sono scelte identità che si sentono minacciati, quindi bisogna un po' richiudersi con definizioni più strette, e lì quindi si inizia a parlare di etnicità, però che cioè, è una situazione con diverse sottilità. E poi anche parlare di nazionalismo in Paesi Baschi è più complicato, cioè, come hai detto te Marco, che spesso tanti movimenti sociali in questi territori sono impiegati in preoccupazioni che vanno al di là del loro territorio, quindi di parlare di nazionalismo è un po' troppo riducente. Ci sono diversi movimenti di recente ancora in Varadi con l'alternativa Camera di Agricoltura e Euskal Herriko Laborantza Ganbara, che sì, è politico nel senso che sta in confronto, vuole crescere la sua propria Camera di Agricoltura, quindi in confronto a quella ufficiale francese. Si chiamano in basco, quindi c'è anche un'affermazione basca, però stanno in preoccupazione molto più grande, che è lo sviluppo agricolo più sostenibile, esplorare diversi altri modi di lavorare il territorio agricolo. C'è anche, fino a poco tempo fa, c'era anche un movimento pacifista, il Demo si chiamavano, che era anche per dare appoggio, difendere la lingua basca, eccetera. Ora non esiste più perché hanno sentito che avevano avuto il minimo di quello che chiedevano, che era scelti più diritti alla lingua basca e più poteri locali politici. Però invece è nato un altro movimento che si chiama Bisi, che ancora porta tanti discorsi che aveva Demo, ma che si concentra più sull'alter globalismo. Quindi ho parlato soprattutto di Varadi, però quello che vorrei dire in questa presentazione è che ci sono la cosa interessante in Paesi Baschi è che ci sono, secondo le diverse territori che hanno diverse situazioni istituzionali, questo ha un impatto su come si intende l'identità basca. Quindi già si sa che all'origine cos'è essere basco? Si parla di essere euskalduna, quindi quello che parla il basco. E purtroppo con gli anni questo non vale più, perché ci sono tanti baschi che non parlano il basco, quindi bisogna reinventare questa parola e si parla di euskeraduna, quello che c'ha il basco in confronto a quello che non ce l'ha, però è sempre basco. E poi c'è stato anche con tante persone che hanno imparato il basco, euskaldunberiak, quindi i nuovi basco parlanti, che tanti forse non hanno origine in Paesi Baschi, ma si possono riappropriare questa identità. Quindi all'origine si parlava di essere basco, era proprio quello che parlava il basco, che aveva delle origini, tutti i nomi baschi, eccetera. Questo era il nazionalismo tradizionale, ma poi con gli anni e con un nuovo tipo di nazionalismo, grazie agli avversali, si può ora essere basco imparando la lingua e anche partecipando in attività che cercano di per lo sviluppo locale. E, quindi, ma questo è sempre un po' un'intenzione con tanti ideali. Cioè, di recente uno storico, Pello Echeverria Inchar, diceva che quello che fa una persona basca è, cioè, siamo tutti uguali, se, per distinguere una persona che è basca è grazie al fatto che parla la lingua. Ma questo è un ideale, magari forse potremmo tutti parlare la lingua, ma ancora non è il caso, e bisogna poter includere in questa identità basca tutti, quindi quelli che non lo parlano ma si sentono appartenenza, quelli anche che usano qualche parola nel loro parlare francese o spagnolo, delle parole basche, questo gli permette di affermarsi come tali. E quindi, allora, dicevo, sì, nei diversi, queste diverse definizioni di cos'è essere basco cambia nelle diverse parti dei paesi baschi. In Iparralde è stato fatto un'inchiesta un paio di anni fa, si è chiesto alla gente per te cosa vuol dire essere basco, e tanti hanno detto bisogna avere delle origini basche, cioè avere il nonno e la nonna, eccetera. Quindi la loro definizione è molto più primordiale, più etnica, cioè devi avere dei marker fissi, cioè non è una cosa che puoi costruire te stesso. E invece in Eguade e nella parte spagnola si è risposto più bisogna o parlare il basco o semplicemente vivere lì e sentirti parte della comunità, basta. Quindi una definizione molto più civica, possiamo dire. E quindi questo è stato un'evoluzione negli ultimi 30 anni, cioè da quando sapete tutti che nella parte spagnola l'euskera non era permesso, e infatti dovuto a questo è sparito abbastanza, ma c'è stato un rinascimento grazie anche allo sviluppo istituzionale. Invece in Iparralde si poteva parlare, però era proprio una vergogna, eri un maleducato, un primitivo se lo parlavi. E la situazione ora è che c'è in Paesi Baschi un 27% della popolazione che lo parla, e la maggioranza sono di 50 anni o di più, quindi una popolazione vecchia che piano piano sta per sparire. Invece in Eguade, in Euskadi, il 48%. In Navarra 18%, quindi in Navarra ci stanno avendo anche tanti problemi, e ancora lì è dovuto alla situazione istituzionale che non ha una politica in favore della lingua basca molto, molto forte. Allora, in Paesi Baschi e in Iparralde sono stati molto attivi nel cercare di promuovere la lingua, e sta dando frutto ora. Sono stati molto bravi a pensare sempre in modi innovativi come attrarre le generazioni più nuove, quindi con festival, eccetera. E infatti ora le Ikastola stanno avendo, cioè ci sono più genitori, giovani genitori che vogliono mettere le loro bambini lì. E ultimamente, quindi fino a poco tempo fa, molto di essere basco in Iparralde per quelli più militanti era questa lotta per dare la possibilità alle generazioni più giovani di sapere il basco. Quindi tutti i genitori nell'Ikastola, il fatto che non c'era molto tutto appoggio finanziario, cioè, dava un po' un senso di solidarietà fra loro. Infatti, sì, ultimamente c'è stato più appoggio dell'istituzione francese, quindi sì, c'era anche una preoccupazione, ora abbiamo quello che finalmente abbiamo lottato per avere, ora però c'è la paura che saremo più rilassati, più questo spirito, questa identità forte nostra si perderà nella normalizzazione. Ma ora c'è stato di nuovo dei tagli, e quindi sembra che si sta ritornando a questo senso di identità forte. Ci sono stati dei tagli anche l'educazione francese, anche c'è cioè il suo modo di contraccancellare gli sforzi che fanno i militanti, introducendo loro il basco nelle scuole pubbliche, però come una lingua straniera, cioè un corso piccolo che si fa. Quindi per loro fanno simbolicamente fanno il gesto, però è anche non è serio. Quindi questo è un problema, perché se tanti giovani genitori ora pensano che va bene, ora nella scuola pubblica c'è anche il basco, quindi va bene, ma non è la stessa cosa. Questo non è che aiuterà i bambini a veramente sviluppare un sapere della lingua. Quindi ci sono ancora queste tensioni di come continuare a promuovere la lingua con l'appoggio delle istituzioni. C'è anche una officina, Office Public de la Langue Basque, quindi uno di tanti questi organismi che stabilisce lo Stato francese per un po' mostrare che si stanno facendo dei gesti, ma sono spesso delle ufficializzazioni di cose che non... Cioè, ancora non si farà, non si ufficializza la lingua, quindi sono sempre delle compromesse più simboliche che altro. Quindi fanno tante inchieste per sapere cos'è lo stato della lingua, però poi di farne qualcosa è un'altra questione. E della parte spagnola, quindi... Quanto tempo c'è? 5 minuti, sì. sì, quindi nella parte spagnola si sa che lì allora c'è stata una normalizzazione della lingua nelle scuole, ma abbiamo ancora questi 3-4 modelli, quelli che vogliono che a scuola imparano solo in basco, quelli che fanno in basco e in spagnolo, oppure quelli che fanno in spagnolo con una classe di basco. Negli anni c'è stato più incremento con le scuole basche, quindi c'è ottimismo. E quindi finirò solo con cosa sono le sfide ora e per il futuro. L'immigrazione è una bella sfida che sta andando in modo positivo secondo i nazionalisti in Euskadi, che più e più bambini di nuove generazioni di spagnoli oppure fuori dei paesi baschi non spagnoli vanno ora, prendono lezioni, vanno alla scuola in basco. Quindi abbiamo ora tutta una nuova generazione di bambini di diverse origini che parlano in basco, però ancora c'è questo piano. Ma ci sono anche diverse domande che si fanno ora che c'è questo nuovo governo socialista in Euskadi, che tagli si farà nella cultura e nella politica della lingua. In Iparade c'è anche la sfida dell'immigrazione francese e l'urbanizzazione del territorio che ancora è soprattutto rurale, però piano piano si... Più gente ora sta vivendo nelle parti verdi e sono persone che vivono in libero prendono la macchina e vanno sulla costa a lavorare, quindi tutte le dinamiche culturali stanno cambiando. E quindi parlavo anche del cambio delle istituzioni in Baralde. Quindi sì, queste sono proprio delle sfide grandi, perché che autonomia c'è? Beh, ce n'è poco, e quindi non si sa come si può continuare a sviluppare una politica in favore della lingua vasca. Però per finire almeno in modo positivo, c'è il nuovo fenomeno dei berciulari, quindi questi cantanti baschi che fino a poco tempo fa era visto come una di queste tradizioni vecchie che non si poteva vedere dopo futuro. Ora ci sono tanti nuovi giovani che cantano in basco e che arricchono molto questa lingua giocando con loro, e c'è più e più gente che vanno a questi campionati di berciolarismo. C'è stato di recente anche la feria a Durango, che è stato un successo, non è stato così affollato come altri anni, però continua ad essere un successo. E bisogna, e finalmente si continuano i movimenti sociali in Paesi Baschi, continuano a fare delle cose molto innovative, che sia cooperazione trasfronterizze, e come ho detto, alter globale, tanti festival, tante diverse iniziative, che questo ci ha già dato tanta frutta in attrarre gente che prima rifiutava associazione con cose basche. Quindi io vedo il futuro non troppo deprimente. Grazie. C'ho anche qua delle pubblicazioni mie che vorrei fare donazione a l'ASCE, quindi ringraziamento. Allora, grazie a Zoe che ha introdotto la questione dal punto di vista della questione basca, dal punto di vista antropologico, cosa che credo farà anche la Ispera di Saola, sempre da un punto di vista antropologico. E abbiamo già visto che sono appuntato alcune questioni che poi magari vorrei approfondire. Sì, sì, tutti capite l'intervento in castigliano, cioè vediamo la traduzione che naturalmente allunga i tempi e magari perde il... Quindi i non castigliano parlanti... non ci sono opposizioni, quindi si interrompiamo. Arratxaldeon, eta eskerrik asko hace el carteli. Io non parlo italiano e voy a intervenir en castellano, come acaba de explicar Marco. Si voy muy rápido, decís que vaya más lento, o podemos pedir a Adriano que se ha ofrecido gentilmente a la traducción simultánea. Bueno, enlazando o siguiendo un poco con lo que ha comentado Zoe, yo quisiera hacer un par de apuntes. El primero relacionado citando a una antigua compañera de estudios en la Universidad de Pau y de Pays de la Loup, en la Facultad de Bayona, refugiada política desde los años 70, que estaba haciendo su tesis doctoral en la Universidad del País Vasco, es decir, ya una relación ya transfronteriza desde el punto de vista académico, en psicología, y que me decía, pero Aispea, ¿no te das cuenta que la situación política en Euskal Herria es tan cambiante, cambia tanto y tan a menudo, que cada seis meses tenemos casi prácticamente un nuevo escenario? Entonces, El caso vasco se ha convertido en los últimos, digamos, 20, 30 años en un caso, en un case study, diría yo, en el ámbito académico, desde el punto de vista de la antropología, pero también de las ciencias políticas. Aquí tenemos a Adriano, una prueba viviente de eso. En el ámbito internacional y también, evidentemente, en Euskal Herria. Es, digamos, un caso de estudio, en el que confluyen diferentes elementos, algunos de los cuales pues, son los que aparecen en el título de esta mesa redonda, ¿no? Identidad, política, territorio y lengua. Cómo se conjugan y cómo podemos llegar a entenderlas. Zoe ha comentado un poco pues, el panorama general, haciendo hincapié en la realidad político-institucional. Como supongo que ya todos sabéis, las siete provincias divididas en Iparralde, Egoalde, tres administraciones, lo que a su vez se refleja en diferentes políticas lingüísticas muy, que no tienen nada que ver, muy diferentes entre sí, la comunidad autónoma del País Vasco, donde el euskera es lengua cooficial con el castellano, pero en la vida real y cotidiana esta cooficialidad dista mucho de ser real. La comunidad foral de Navarra, donde hay una zonificación, una división por zonas, donde el euskera es, digamos, de la zona geográficamente, de la zona yendo del norte hacia el sur, más oficial, con ciertos aspectos reconocidos a nivel institucional y con una absoluta ausencia de reconocimiento institucional desde el sur de Iruña, de Pamplona, hacia la ribera. Y en la zona de Iparralde, donde la falta de reconocimiento es total. Aunque el gobierno francés, bueno, pues, sigue todavía sin haber firmado la Carta de las Lenguas de la Unión Europea, ha ido paulatinamente admitiendo la presencia del euskera en algunos foros, en algunos ámbitos, entre ellos el de la educación, que ha comentado Zoe. Yo quisiera señalar también que, aparte de esta realidad, digamos, institucional o marcada por las leyes y dependiendo de las diferentes administraciones, toda la parte relacionada, todo lo que está relacionado a los movimientos sociales y a la reivindicación de la lengua ha sido una constante desde los años 60 de forma ya organizada. Esto se tradujo ya en un primer lugar, se refleja en un hito muy importante, que es la creación del euskera batua, una lengua estándar que no existía hasta entonces, hasta finales de los años 60. Es una situación sobre la que pocas veces nos paramos a reflexionar. ¿Qué significa ser hablante de una lengua que no ha estado unificada, que no tiene un marco de referencia estandarizado como el resto de las lenguas europeas, que tienen ya una tradición muy larga en algunos casos, con un apoyo institucional muy marcado? Y en un contexto en el que los vecinos lingüísticos son dos lenguas muy potentes, diría yo, con mucha fuerza, como pueden ser o como son el francés y el español, antiguas lenguas de imperio en los dos casos. Pero ¿qué significa vivir una realidad lingüística en la que hay una fragmentación dialectal muy importante, con una riqueza de hablas, de formas de hablar, de dialectos, pero que a la vez carece de una forma estandarizada que tal y como digamos, los especialistas en el tema y aquellos que han estudiado los fenómenos relacionados con la lengua, sino también el desarrollo del nacionalismo, hacen hincapié la necesidad del desarrollo de una lengua escrita, pues un poco para traer a colación los trabajos de Benedict Anderson, por ejemplo, sobre la necesidad de tener una lengua escrita que pueda ser entendida por toda la comunidad de hablantes. Es algo que se inicia, digamos, en el siglo XX, a finales de los años 60, a partir del 68, y que todavía hoy en día, a pesar de que existe ya una forma estandarizada, reconocida como tal, una institución que es la que la avala, Euskaltzaindia, reconocida en los 7 territorios, a pesar de eso, sigue habiendo una, lo que yo llamaría en cierta medida una gran inseguridad lingüística por parte de los locutores, porque todo no está decidido, hay muchísimas cosas sobre la lengua, estoy acordando de un debate, es un ejemplo, pero del debate que surgió sobre cómo llamar a la arroba. La Kiochola, aparece internet, la Kiochola se hace digamos un elemento presente, omnipresente en prácticamente nuestra vida cotidiana, y pues hubo una serie de debates sobre cómo se le iba a llamar en euskera, y hasta que se decidió cuál iba a ser el nombre que digamos que se ha adoptado para referirse a ella, a Bildua, hubo diferentes propuestas. Entonces, imaginaros constantemente con todas las palabras nuevas que aparecen ligadas al desarrollo de la tecnología, por ejemplo, estar constantemente debatiendo, discutiendo de cuál es la forma correcta. Eso crea lo que yo considero, me parece que resume bastante bien esta idea de la inseguridad lingüística. Nunca sabes si estás hablando correctamente o si estás inventando algo. A la vez también da muchísima abre las puertas a la inventividad, a poder inventar, a poder crear, a poder reformular la lengua, que nunca es estática, ni en el caso de la euskera ni en el caso de ninguna otra, pero a la vez pues hay todos estos fenómenos ligados al hecho de que la lengua estándar es una lengua muy reciente, a diferencia de euskera como lengua, el estándar sí es muy reciente. Entonces, relacionado con la creación y la aparición y la difusión del estándar a través de los medios de comunicación y de la enseñanza, aparecen también nuevos territorios del euskera. El euskera empieza a ser hablado en lugares en donde hacía siglos en el que no se hablaba. Y ahí tenemos todo el fenómeno de aparición de ikastolas en el sur de Álava y sobre todo en el sur de Navarra, en la ribera, zonas que históricamente aparecen documentadas como habiendo perdido la lengua hace muchísimos siglos, mucho antes de la Edad Media, que fueron romanizadas muy recientemente y en las que, sin embargo, aparece un fenómeno de euskaldunización importante por el esfuerzo que supone por parte de los padres y de la comunidad, que quiere crear un espacio lingüístico en una zona en la que nadie habla esa lengua naturalmente, o sea, no es una lengua vehicular, no es una lengua de comunicación hasta el presente. Entonces, esto también nos da, es un ejemplo, o refleja la importancia que ha tomado la lengua en los últimos años, en las últimas décadas, como elemento definitorio de la identidad. Algo que no ha sido una constante tampoco, esto creo que vale la pena subrayarlo. Hoy en día nos parece que efectivamente es el elemento o uno de los elementos principales, pero las consideraciones con respecto a la lengua de los, por parte de los, de los propios euskaldunes y de los vascos, y estoy de acuerdo con Zoe, que es hay una dificultad en definir qué es, bueno, una dificultad, aunque es una cuestión que vuelve una y otra vez sobre qué es ser vasco, y va cambiando a través del tiempo. Y esta idea, o esta, este movimiento por, que algunos pueden llamar por recuperar la, o sea, recuperar la lengua en zonas en las que, no se habla de forma cotidiana, también nos lleva a considerar otro tipo de fenómenos que quizás no son tan conocidos y que son, pues igual aparecen como formas más tangenciales y que a mí me interesan mucho, y que están relacionadas con el uso de la lengua, justamente de forma inversa de lo que está documentando ahora, el uso del euskera como lengua de comunicación en contextos, en los contextos fronterizos. Eso es un contexto que ambas conocemos, conocemos muy bien, en los que se puede ver cómo hasta un determinado momento, y ese determinado momento en el caso en el que yo he estudiado es hasta el siglo XX, a mediados, no mucho más, no, hasta los años 70, el euskera ha funcionado como lengua de comunicación en todos los niveles en determinadas zonas de la frontera. Y a todos los niveles quiere decir como lengua de comunicación cotidiana, la lengua en la que la gente habla, se habla entre sí, independientemente de qué lado de la frontera, del lado de la frontera en el que resida, de la nacionalidad que tenga, de la lengua oficial en la que ha recibido la educación, generalmente hasta, por eso digo que la década de los 70 todavía el euskera no tiene ningún estatus reconocido en ninguno de los territorios en ese momento. Y también a nivel, digamos, en los años siguientes ha funcionado de facto como lengua de comunicación a nivel institucional, ya que ha habido una ruptura importante entre el conocimiento, del francés por parte de las poblaciones de Gualde, que han dejado de las poblaciones fronterizas, estoy hablando, que en gran medida han dejado de aprender el francés. Y entonces el euskera se ha convertido otra vez en una lengua de comunicación necesaria y útil, que es lo que todo hablante de una lengua, digamos, pide a su lengua. No se le pide que sea una lengua bonita o armoniosa o musical, sino que sea una lengua, digamos, la función primera de la lengua es comunicar. Y así he podido encontrar, por ejemplo, documentos que acreditan cómo los municipios de Sara y Vera han tenido comunicación oficial en euskera, siendo uno de, o sea, siendo el municipio de Sara estando en territorio francés, el de Vera en territorio español, la comunicación entre ambos, escrita, ya no estoy hablando ya solo de lo que puede llegar a hablar la gente cuando se encuentra entre en ese contexto, sino ya escrita a nivel oficial, a nivel del ayuntamiento. Entonces, todas estas dinámicas también han tenido otras formas, han adoptado nuevas formas en años posteriores, que han digamos, invertido la relación, las relaciones transfronterizas, la direccionalidad de las relaciones transfronterizas. Son movimientos muy pequeños, cuantitativamente no son muy relevantes o muy importantes, pero cualitativamente, muy significativos en el sentido que otorgan a la lengua otra vez ese papel de elemento de comunicación que va ligado a ella. Estoy pensando en la escolarización de niños y niñas, y también en la universidad, en la que hasta hasta la década de los 80 el flujo transfronterizo siempre era de sur hacia el norte y posteriormente se ha invertido. Hay, digamos, una atracción del sur, o sea, el sur se ha convertido en una zona de atracción para algunos vascoparlantes del norte que han escogido seguir su escolarización en euskera en los institutos, en los liceos de las localidades fronterizas y posteriormente han seguido la escolarización en la Universidad del País Vasco, donde se puede estudiar ahora todavía no todas las carreras en euskera, pero en algunos casos sí todos los estudios y en otros una gran parte de los estudios, y en los que han escogido ese camino para poder seguir su escolarización empezada en las ikastolas en Iparralde de las que ha hablado todo. Por tanto, estos cambios que son quizás ínfimos, quizás cuantitativamente no tan importantes, nos están enseñando también nuevas realidades lingüísticas y nuevas formas de entender la identidad en la que la lengua se convierte también en un elemento aglutinador independientemente o a pesar de las divisiones administrativas. No sé si me he quedado. Bueno, en lo que respecta a la parte de las movilizaciones relacionadas con la lengua, esto ha sido un tema que también se ha estudiado bastante en profundidad. Yo sí quisiera recalcar, quizás esto sea un tema de debate, pero es algo que cuando recibí la invitación por parte de Viviana y Adriano de participar en esta mesa redonda, me surgió un poco como cuestión que merecería la pena estudiar y no sé, pues, y es, digamos, todos los análisis o los estudios se han enfocado en los movimientos o las movilizaciones en favor del euskera, pero también hay movimientos y movilizaciones en contra del euskera, y esos hasta ahora yo que sepa no he encontrado ningún tipo de literatura académica sobre este tema. Me parece que sería un tema interesante para estudiar. No son tan articulados como las movilizaciones en favor del euskera, pero sí son muy activos y, digamos, nos interpelan sobre el papel que juega la lengua en la creación de las identidades. Están relacionados en parte con el boom del nacionalismo español, que pocas veces es denominado como tal, y del apoyo institucional que recibe la lengua española por parte del Estado, con a través de diferentes entidades, instituciones, financiación, por ejemplo, el uso de la letra ñ como elemento identificador y diferenciador del español con respecto al resto de las lenguas e identidades del mundo. Y estoy pensando en casos concretos como fue una protesta que hicieron los enseñantes de secundaria de los liceos, a los que la ley, las leyes van cambiando, y entonces la ley obligaba a tener un mínimo nivel de euskera, y a pesar de que muchos de ellos habían asistido a cursos de euskera, habían sido liberados, quiere decir que les habían quitado sus obligaciones docentes para seguir estos cursos, para que aprendiesen la lengua, algunos nunca la aprendieron, no consiguieron pasar el examen, o simplemente no se presentaron al examen tampoco, y a la hora de aplicar la ley montaron una protesta diciendo que se les estaba discriminando. Entonces, llevando ese fenómeno que se conoció como el caso de los profesores del Instituto Bertendona, un instituto en Bilbao, en el centro de Bilbao, digamos fue o ha sido la cara más visible de movilizaciones en contra del euskera, como con argumentos como la discriminación, el euskera como elemento discriminador, como elemento diferenciador, como elemento que impide incluso, o sea, con discursos incluso como el euskera como elemento que impide la convivencia. Entonces, todos estos fenómenos que yo pienso que no son tan incipientes, pero quizás no aparecen o no parecen tan articulados como los movimientos en favor del euskera, merecerían también ser estudiados por parte de los académicos. O sea, que yo lanzo un poco la invitación, si hay alguien en la sala, ya sé que hay varios expertos. Y... Allora, grazie a Ispea. Come vedete, di questioni sono state girate già tante, perché già nel titolo, insomma, ci sono già quattro categorie. E io mi sono preso alcuni appunti, magari poi li userò per stimolare gli ultimi 20 minuti di dibattito, perché non credo che ne abbiamo molti di più. Do la parola adesso a Carlo Pala, che cambia il punto di vista, perché qui mi viene indicato come politologo, quindi non più un punto di vista antropologico, ma un po' differente. Grazie Marco. Prima di tutto vorrei ringraziare sia l'ACCE che la rivista Partecipazione e Conflitto, mi riesce semplice farlo visto che in personificata qui nella stessa persona, quindi grazie veramente di avermi dato la possibilità di intervenire in un dibattito molto interessante, che per me avrà un compito un po' più difficile probabilmente, in quanto dovrò cercare di stabilire l'attenzione più che altro su dei casi che escono al di fuori dei casi che hanno molto bene illustrato sia Zoe che Aispea, perché quelli che tratterò io fanno parte di una categoria di etnoregionalismi o etnonazionalismi, e qui non ci incartiamo nella differenza, che sarebbe molto lunga, vero Adriano che già ride, che sono quello sardo e quello bretone. Tratteremo quindi la Sardegna e la Bretagna in prospettiva comparata, in modo particolare per quanto riguarda il rapporto tra politica e cultura, e li abbiamo inquadrati già da subito all'interno di quegli etnoregionalismi o etnonazionalismi definibili carsici, cioè che a cicli più o meno regolari nella propria storia vedono riattivare il conflitto col centro, quindi in questo caso la Sardegna con Roma e la Bretagna con Parigi, a intervalli più o meno regolari e non sempre con i successi traducibili poi a livello politico e non solo in funzione elettorale rispetto ai partiti che cavalcano questo il clivage centro-periferia. Sono comunque due regioni che hanno un cosiddetto potenziale identitario, un potenziale etnico abbastanza alto, cioè al pari, non molto più basso, anzi diciamo veramente al pari di quello di altre regioni come gli stessi Paesi Baschi o la Corsica o la Scozia. E quindi resta da capire perché queste due regioni, al pari di tante altre, non riescono ad attivare il proprio conflitto come lo fanno invece molto bene altre regioni e altre nazioni in Europa. L'argomento diviene più importante in Europa. L'ossatura principale degli etnoregionalismi e dei nazionalismi mancati europei è costituita proprio da regioni di questo tipo, per cui la scienza politica, la sociologia e altre discipline si sono avvicinate forse anche a ragione ai casi come quello basco, corso, dell'Irlanda del Nord, proprio perché hanno avuto la capacità nella loro politicizzazione sia a livello elettorale che a livello di predisposizione a livello sociale abbastanza elevata, trasformandosi addirittura anche molto spesso in violenza, di politicizzare lo stesso conflitto. La maggior parte degli etnoregionalismi europei non è così, quindi bisogna cercare anche di capire il perché. E quindi arrivare a capire questo concetto probabilmente è necessario per farlo prendere tutte le varie dimensioni che costituiscono l'attivazione del cleavage, cioè della frattura tra il centro e la periferia, in diverse prospettive. Quindi io ho cercato nel mio articolo di delineare, per i due esempi che ho studiato, diverse dimensioni di analisi, e ho cercato di dimostrare con un concetto che forse impropriamente ho chiamato la connessione disorganica degli attori, come nelle varie dimensioni, cioè la storica, l'economica, la sociale, e se ne possono trovare la politica, e se ne possono trovare tante altre, gli attori che si occupano di portare avanti questa frattura tra il centro e la periferia non siano profondamente connessi tra di loro, a differenza di quanto avviene probabilmente in regioni che questo l'hanno fatto con più forza. E quindi alla fine il risultato è quello di sospendere la rivendicazione con il centro, o comunque di attivarla, come dicevo prima, in periodi non sempre in maniera continuativa, quindi a periodi alterni, con diversa e alterna fortuna, e quindi in maniera assolutamente non continuativa. Cercherò di, prima di affrontare l'aspetto politico e culturale in Sardegna e in Bretagna, di definire almeno a grandissime linee in che cosa si sostanziano i ragionalismi sardo e bretone. La Bretagna è una regione della Francia, come tutti voi sapete, che ha attivato il proprio conflitto con il centro a partire da una rivendicazione di tipo culturale, e quindi qua già c'è un elemento che probabilmente interessa rispetto al tema che siamo chiamati a dibattere oggi. Infatti c'è una parola in bretone che si usa per indicare proprio come il regionalismo locale sia stato attivato, che è emsavu, che vuol dire in bretone risveglio oppure ripresa, proprio per indicare quel fenomeno di riattivazione dell'opposizione della Bretagna a Parigi, che è nato da un punto di vista più che altro culturale. Culturale perché in Bretagna, a metà dell'Ottocento, praticamente si aveva una ricomparsa di quella vague celtique, proprio dell'onda celtica e del romanticismo che andava dominando, diciamo, le prospettive ideologiche dell'Europa di quel periodo, che cercava di ritornare alle origini celtiche, e quindi cercava di ricostruire a partire da quelle origini celtiche, quindi culturali ed etniche, la differenza della regione rispetto al resto della Francia. La Sardegna invece, a differenza, proprio vedendola in prospettiva così comparata, non ha fatto niente di tutto ciò, perché la Sardegna ha scoperto e riscoperto più volte nel corso dei suoi secoli l'opposizione non tanto con Roma, ma prima con tutti i vari centri che hanno dominato l'isola, prima di tutto da un punto di vista economico e sociale. Perché questo? Perché se poniamo la lingua, l'aspetto linguistico, come quello principale dell'attivazione di un cleavage etno-territoriale, in Sardegna il problema era facilmente risolto, perché in Sardegna tutta la popolazione, o quasi tutta la popolazione, per vari secoli parlava il sardo e non capiva l'italiano e non capiva nessun'altra lingua che non fosse il sardo. Per cui, paradossalmente, vi do una piccola chicca, il regionalismo sardo, per essere tale, per diventare tale nei confronti di Roma, invece che insegnare il sardo, di cui non aveva bisogno, ha dovuto insegnare l'italiano alle proprie popolazioni, proprio per cercare di attivare quel contrasto con il centro che non era possibile lasciando la situazione com'era, cioè facendo in modo che la Sardegna avesse solo una lingua, come era fino ai primi del Novecento fondamentalmente. L'aspetto culturale in Sardegna è nato molto dopo, è nato a metà degli anni 50, ma più negli anni 60 e 70, quando nella ondata di modernizzazione che ha in un certo qual modo investito l'isola, il sardo stava iniziando a perdersi, e stava iniziando a perdersi al pari del bretone in Francia, per quello che ho forse un'altra volta dico impropriamente definito vergogna linguistica. Cioè la Sardegna e la Bretagna hanno avuto una generazione di genitori negli anni 40 e 50 che hanno smesso di insegnare, così come prima avveniva assolutamente in maniera normale, il sardo e il bretone ai propri figli, perché era socialmente sconveniente, oppure nel caso della Bretagna perché era proprio proibito, perché i bambini bretoni che andavano a scuola nei primi anni del Novecento, 1930 soprattutto, venivano puniti e fustigati dai maestri se parlavano in bretone. In Sardegna la situazione non è stata così dura, così netta, però lo Stato italiano ha in un certo qual modo cercato di frenare la trasmissione del sardo, cercando di fare in modo che gli insegnanti dissuadessero piano piano i bambini dal parlare in sardo. Io stesso, che sono nato bilingue sardo-italiano, ricordo bene, non sono passati certo tantissimi anni, che i miei primi anni di elementari, io non avevo di questi problemi perché, ripeto, sono nato bilingue, però molti miei compagni di scuola che sono nati solo parlanti sardo avevano molti problemi a comunicare in italiano, e le stesse maestre avevano come politica proprio proveniente dal centro quella di insegnare l'italiano a partire dal sardo e di fare in modo che anche durante la ricreazione non si parlasse assolutamente in sardo. Questi erano degli elementi che un po', ora li ho estremizzati molto, in Francia e in Italia, pur con le diversità tra i due paesi, cercavano in un certo qual modo di limitare l'insegnamento del sardo e la trasmissione e la diffusione della lingua minoritaria. Era semplice che questo avvenisse in due regioni come la Sardegna e la Bretagna, che possono essere definite sotto alcuni punti di vista: la Sardegna è un'isola etnica, cioè una porzione di territorio che è circondata da paesi e da culture, da civiltà che parlano e che avevano comunque un'altra lingua, e la Bretagna è una frangia nazionale, cioè un territorio che accomuna rispetto ad altri territori alcune proprietà di carattere culturale ed etnico in senso lato. Ora, capisco naturalmente che questo tipo di ragionamento possa far discutere, però il fatto che la Bretagna sia una delle sorelle, delle sette sorelle celtiche, insieme alla Galizia, alla Scozia, all'Irlanda, eccetera, ha in un certo qual modo rinforzato negli stessi bretoni uno spirito di appartenenza comunque diverso da quello francese. Che tipo di ruolo possiamo attribuire alla cultura nelle due regioni? Io cercherò prima di un po', ho accennato all'aspetto linguistico, ma volevo toccare molto brevemente anche l'aspetto folcloristico, aspetti molto importanti in quella costruzione cosiddetta etnosimbolica del conflitto tra centro e periferia, che in Sardegna e in Bretagna hanno sicuramente avuto un'importanza fondamentale, anche se per motivi opposti in almeno alcune di queste dimensioni che ho citato, come poi vedremo. Ho detto prima della lingua. La lingua in Sardegna, oggi come oggi, non è protetta fondamentalmente. Un po' si vive del fatto che sia una lingua ancora parlata, diciamo che tra le regioni minoritarie che hanno un cleavage, una frattura centro-periferia in Europa, forse è una delle regioni con il più alto numero di locutori e di parlanti, quindi della lingua minoritaria. Si stima che oggi in Sardegna circa 1 milione parlino il sardo, comunque lo capiscano perfettamente. Questo non significa che la lingua non sia in pericolo, anzi. In Bretagna invece la situazione è ben diversa, innanzitutto perché la Bretagna ha una linea quasi immaginaria che divide in due la regione, una parte perfettamente bretonna, come dicono loro, cioè parla proprio il bretone, e una parte invece parla un altro patois, una sorta di dialetto misto tra il francese e il bretone, che si chiama Gallo. Quindi per loro c'è stato un altro problema, quello di far sopravvivere un dialetto per far sopravvivere una lingua addirittura. Però stranamente, paradossalmente, proprio in Bretagna, proprio in Francia, che ancora adesso si rifiuta ancora adesso di firmare, di ratificare la lingua, il manifesto europeo per le lingue minoritarie, e proprio in Bretagna ci sono degli esempi molto efficaci di protezione linguistica voluti dalle istituzioni politiche locali e in un certo qual modo avallati anche da Parigi. L'esempio più significativo in Bretagna sono le scuole di Wan, che in bretone significa germe, cioè è proprio l'idea di creare dai bambini proprio piccoli delle elementari una educazione intensiva in bretone, cioè tutti i bambini delle elementari vanno a scuola, alle scuole di Wan, per imparare il bretone e tutte le altre materie fondamentalmente, avendo poi alla fine la possibilità di accedere ai collegi oppure ai licei oppure alle università avendo dei titoli assolutamente legali. Non solo, ci sono tanti esempi collaterali di azioni fatte per mantenere vivo il bretone. Ad esempio, da un punto di vista proprio politico, abbiamo lo Sturm ar Bretone, che significa battaglia per il bretone. Sono organizzazioni politiche anche di estrema sinistra che sono molto attive in tutta la regione, sono caratterizzate per l'affissione di pannelli bilingui, laddove invece lo Stato prevede che vengano affissi solo pannelli in lingua francese. Per esempio, tante volte, anche quando io ero a Rennes, in Bretagna, sono stati posti e tolti e rimessi dei cartelli che davano il nome bretone alla città di Rennes, che è Roison, e praticamente venivano più volte tolti e rimessi, io c'ero 4 mesi e mezzo, quindi immaginatevi, comunque non è che ci fossi tantissimi anni. È un'organizzazione che si occupa anche di trasmettere l'insegnamento del bretone anche agli adulti, e per fare questo sono nate le scuole di Vies e di Viun, che sono proprio sorte con l'obiettivo di dare l'insegnamento al bretone di quei figli nati dai genitori degli anni 40 e 50 che, per quello che avevo definito prima vergogna linguistica, avevano assolutamente smesso di trasmettere il bretone ai propri figli. In Sardegna abbiamo invece molti meno esempi. Proprio in questi giorni, prima che io venissi qua, c'è stato un grande convegno in un paese della Sardegna, in provincia di Morte, il più alto dell'isola, si chiama Fonni, che ha chiamato a raccolta tutti gli esperti di sardo e tutti gli esperti anche di varie lingue minoritarie, penso anche dal basco, tra l'altro c'era anche un universitario di Bilbao, che è venuto insieme ad altri esperti di lingue minoritarie ad interrogarsi su come era possibile far sopravvivere le lingue minoritarie anche laddove paradossalmente sono più al riparo, come può essere in Sardegna. Ebbene, quello che è emerso per l'ennesima volta, ma non c'era bisogno di quel convegno per dimostrarlo, è che il sardo, al pari di tante altre lingue minoritarie, non è affatto in buona salute, ma anzi un sacco di norme e di politiche linguistiche fatte apposta dallo Stato italiano, in questo caso e molte con responsabilità anche a livello locale, non sono riuscite a trasmettere il sardo a livello sia scolastico che amministrativo. Ci sono solo due esempi di istituzioni, chiamiamole così, in Sardegna, che sono Sussufficio Sposalimba Sarda, scusate se dico, il sardo e Soscomitato Sposalimba, che sono due istituzioni che si occupano in un certo qual modo di salvaguardare il sardo, ma in maniera differente purtroppo, quindi non c'è un tipo di unione nemmeno tra di loro, perché gli uffici per la lingua sarda hanno l'idea che tutto il sardo debba essere in un certo qual modo omogeneizzato, almeno da un punto di vista ortografico e quindi di scrittura, e poi ogni variante all'interno del sardo in Sardegna possa essere parlata come viene effettivamente parlata dagli abitanti di vari luoghi. Questa è un'opzione però che non è, quindi proprio a livello di politica linguistica, che non è assolutamente accettata dai componenti, i comitati per la lingua sarda, che invece si battono perché ogni variante del sardo venga parlata, quindi il catalano ad Alghero ad esempio, il genovese a Carloforte, ma tutte le varie varianti, scusando il gioco di parole, del sardo vengono parlate dai propri abitanti effettivamente come vengono insegnate. Naturalmente questo è uno degli elementi in cui la politica è nella mobilitazione etnoterritoriale entra, perché come stavo dicendo prima c'è anche il discorso musicale che è importante nelle due regioni, e quello folcloristico. In Sardegna abbiamo diversi gruppi musicali che hanno da diversi decenni come obiettivo quello di trasmettere dei messaggi politici attraverso l'uso della lingua sarda e degli strumenti musicali che i bambini hanno imparato a conoscere da bambini, che insomma le persone hanno imparato a conoscere da bambini. Stessa cosa anche in Bretagna, c'è un fiorire di, in Sardegna possiamo pensare da Piero Marras in poi, in Bretagna sicuramente avrete probabilmente sentito parlare di Alain Stivell, di Gilles Servati in poi, sono dei cantautori che hanno riscoperto gli usi degli strumenti musicali popolari per trasmettere dei messaggi in chiave politiche di mobilitazione, spesso anche a carattere indipendentista. Quello che divide invece le due regioni probabilmente è ad esempio l'utilizzo che viene fatto del folklore. Sia in Sardegna che in Bretagna è un vivissimo fiorire di riscoprire di costumi, di arte, di folklore, di balli e di tradizioni popolari che però vengono in un certo qual modo utilizzate a fini politici in maniera differente. Mentre in Bretagna abbiamo i Cercle Celtic, che sono delle organizzazioni che hanno in un primo momento l'obiettivo di insegnare i balli e le danze e i suoni delle cornamusa bretoni o degli altri strumenti popolari bretoni ai ragazzi, ma fondamentalmente hanno anche l'obiettivo di mobilitare la popolazione bretone in chiave politica, perché quel tipo di insegnamento è un insegnamento che vuole anche far vedere la differenza rispetto al resto della Francia. Cioè io ti insegno una musica che trovi solo qui, io ti insegno a suonare degli strumenti che trovi solo qui, quindi io ti sto insegnando in un certo qual modo che tu sei diverso dal resto dei francesi. In Sardegna, pur essendoci ovviamente una tradizione immensa, sia a livello musicale che a livello coreutico, strumentistico, insomma, in senso lato, questo uso non è stato mai fatto perché probabilmente, come dicevo prima, il conflitto centro-periferia in Sardegna era soprattutto a livello economico e sociale e politico, e quando faceva delle incursioni nel mondo culturale era semplicemente a livello solo linguistico. Che tipo di rapporto possiamo definire tra i partiti politici principali e la cultura? Anche questo è un aspetto molto importante. Io ho provato a delineare due raffigurazioni diverse. In Bretagna parlerei più di simbiosi e di occupazione. Cosa intendo per questo? Molti regionalisti bretoni e molti indipendentisti bretoni, più duramente parlando, arrivano dal mondo della cultura, e quando non arrivano dal mondo della cultura i partiti etnoregionalisti bretoni in un certo qual modo sono quasi come occupati dalla cultura, cioè i partiti sono fondamentalmente formati da persone che avevano altre militanze di tipo culturale o teatrale o musicale o linguistico o teatrale in senso lato, che quindi prestavano la propria opera ai vari partiti, e poi quando magari delusi dalla politica che quel partito portava avanti ritornavano nel mondo culturale. Quindi c'era quasi più una occupazione e una predominanza dell'ambito culturale in un ambito politico. In Sardegna invece è l'esatto contrario probabilmente. Innanzitutto possiamo parlare di neutralità, cioè il mondo culturale e il mondo partitico-politico restano quasi su due piani contrapposti, divergenti, diciamo. E se invece un certo tipo di legame ci deve essere, parleremo più che altro di egemonizzazione, quando c'è, vediamo, un tentativo dei partiti di occupare o di andare alla ricerca del mondo culturale. E quindi la cultura viene vista quasi esclusivamente a fini politici, mentre invece potremmo dire che in Bretagna la politica è vista quasi a fini culturali. Per cui, in conclusione, cosa possiamo dire dopo questo breve o forse lungo troppo excursus? Che la Bretagna conduce la propria opposizione a Parigi sotto quasi sul filo della cultura, quindi è la cultura che determina buona parte dei successi a livello non solo politico ma anche economico e sociale del regionalismo bretone, mentre invece la Sardegna utilizza la cultura con meno continuità, forse per le ragioni che dicevo prima, quando lo fa solo per quando si rende conto che la lingua è più in pericolo, però fondamentalmente mantiene separate le due sfere e cerca di condurre la propria opposizione a Roma da un punto di vista politico-istituzionale con rivendicazioni in modo particolare di carattere economico. Spero di essere stato chiaro e grazie a tutti davvero. Grazie, l'ultimo intervento di Gianmarco Serra, che qui viene indicato come scrittore e documentarista, quindi dicevo un altro punto di vista. Io adotterò un punto di vista umanistico-cosmopolita che effettivamente considera un po' il sapore dei precedenti interventi un po' tribali, effettivamente di grande attualità ma anche anacronistici, cercherò di argomentarlo. Personalmente ritengo che l'identità non esista, ma accetterò riallacciarmi a quanto detto prima, l'idea che comunque delle identità ci vengano più o meno suggerite, imposte, in qualche modo possono anche esercitare un fascino su di noi e quindi su tutti, e ci si rispecchi in queste o altri, ci classifichino e ci in qualche modo condannino a una qualche identità, sia questa sessuale, sia questa etnica, sia questa religiosa, culturale e via discorrendo. Io credo che interessante sia ragionare su quello che è il nostro rapporto con questa identità, cioè quello che ciascuno dovrebbe avere in relazione a questo senso di appartenenza che io personalmente considero velenoso come l'identità, e nella scala dei valori umani, filosofici, politici che ciascuno di noi rappresenta, come si relaziona con questo, con queste identità che appunto dovremmo avere, che ci dovrebbero rappresentare. Io anche in relazione alla questione della lingua e poi della cultura che è stata evocata, ho una posizione fortemente critica, perché per esempio prima è stato detto che ci sono quelli pro basco e quelli contro il basco. Mi domando se ci sono studi sugli indifferenti al basco, non dico gli indifferenti per superficialità, ma gli indifferenti consapevoli e pensano che le lingue nascano, muoiano e non esista la purezza delle lingue, via discorrendo. L'italiano è fatto di parole greche, arabe, di parole latine, e quindi diciamo si può anche avere un rapporto neutrale nei confronti della lingua senza farne alcun tipo di feticcio, ma considerarla semplicemente uno strumento. Poi può essere prezioso studiarle per i filologi, chi diciamo interessa per le lingue morte o vive, considerarle morte già anche quelle vive, quindi di per sé non considero un valore positivo, ecco, il culto, il feticcio della lingua, come invece poi diventa uno strumento, ecco, di coesione e di creazione di identità. Sulla lingua, che mi hanno colpito un po' gli interventi che sono stati fatti, vorrei fare due esempi. Uno che riguarda proprio un catalogo che mi ha dato Alex 2 anni fa della Biennale di Venezia, un catalogo che si chiama Planet K, era dedicato, era un evento collaterale, ma insomma un padiglione dedicato al Kurdistan, in cui avevano partecipato poi collateralmente i baschi, dove proprio sulla lingua l'unico deputato al Parlamento turco, una signora, ora non ricordo il nome, mi spiace non aver portato quel catalogo, diceva: là dove si parla curdo, quello è il Kurdistan, prima diceva castroneria, tipo ci si può esprimere solo nella lingua madre, tante cose retoriche di questo genere, ma la cosa più grave era questa, là dove si, che è il Mein Kampf di Hitler, no? Dove si parla tedesco, quello è il Terzo Reich. E questa è una cosa che mi ha colpito perché erano artisti, quindi ho trovato profondamente sconcertante questa concezione totalitaria della lingua per definire l'identità, perché ripeto, l'identità per me è comunque un vocabolo profondamente ambiguo e totalitario, perché include sempre qualcosa che non vorrebbe includere, esclude sempre qualcuno che invece vorrebbe includere, e quindi essendo un termine non scientifico, e poi oggi, come dicevamo prima, da buona parte dell'antropologia è messo fortemente in discussione, perché vero è che i codici di Lévi-Strauss, che è un genio, sono stati utilizzati, ma oggi c'è un profondo dibattito che mette proprio in discussione la sensibilità prospettica che da Lévi-Strauss in poi ha ingenerato la costruzione di un sistema di lettura e di decifrazione della realtà. Oggi ci sono posizioni critiche sulla lingua. Vorrei citare un'antropologa italiana che si chiama Anna Maria Rivera, in un libro che si chiama L'imbroglio etnico, molto bello, edizioni Dedalo, ve lo consiglio, in cui fa un esempio fantastico. Dice: dissortasi l'ex Jugoslavia, sono nate, c'era il serbo-croato, che era una lingua comune, le rispettive, non so, Accademia della Crusca, o insomma, per la purezza della lingua. E quindi si trattava di spogliare la vecchia, cioè la lingua parlata, dalle parole impure. E nel primo numero di un bollettino, è un caso di scuola, insomma, per i linguisti, un lettore scrive: gentile direttore, io ho sempre chiamato il tale Ragnetto in questo modo, posso chiamarlo così? Risponde il direttore: ma se il nome di questo Ragnetto compare negli scritti prima del 1916, l'anno della creazione dello Stato, lei può chiamarlo, se no sospenda di chiamarlo che creeremo una parola. Ecco, questo era anche in riferimento alla questione della roba. Ma l'esempio che volevo farvi, più interessante sull'identità e sulla lingua parlata, riguarda, è citato nel libro Intervista sull'identità di Bauman, in cui lui cita un esempio sulla percezione di sé, sulla costruzione dell'identità, molto interessante. La Polonia degli anni 30. In Polonia, come sapete, cioè, viveva in una situazione di particolare terrore, i russi da una parte e i nazisti dall'altra. Si trattava di creare una forte identità e coesione culturale per cercare di fronteggiare questo pericolo. E poiché la Polonia era, tanto per usare delle categorie che mi ributtano, insomma, etnicamente divisa in ebrei, in ucraini, in prussiani, lettoni, slovacchi e via discorrendo, i consulenti del ministero dissero: vabbè, facciamo però almeno un censimento, perché si deve pur cominciare in qualche modo per poi vedere come operare. E fu fatto un formulario che ha pubblicato in questo libro molto interessante, in cui le persone dovevano definirsi cosa sei. Ebbene, milioni di persone non sapevano come definirsi, cioè diciamo, appartengo a questa valle, a questo fiume, non so, amo questa quercia, ma il raggio d'azione delle persone era di 20 km, cioè l'orizzonte visivo rappresentava un po' il senso appartenenza a un posto, ma tutto il resto era una costruzione addirittura culturale che voleva che le persone mettessero la X in una delle poche opzioni, appunto, che erano previste. E quindi io mi domando, insomma, ancora oggi, se anche la questione della cultura, ma esiste una cultura basca, esiste una cultura italiana, ma che vuol dire? Il 99,9% della nostra esistenza è determinata da cose che vengono da fuori. Nei paesi baschi si mangiano le patate, i pomodori che vengono dal Sud America, i numeri sono quelli arabi, l'alfabeto è quello latino, l'asfalto, i semafori, l'idraulica, l'aspirina, le mutande, i pantaloni, il cellulare, il computer, la ruota, viene tutto da fuori, la polvere da sparo viene dalla Cina, è stata inventata, il cashmere, il cotone, viene tutto da fuori. Se esiste una cultura basca, è un uomo in una caverna che cerca di accendere una scintilla. Tutto il re, la cultura è apertura. Io sono ora vorrei proprio citare anche John Lennon, sono 30 anni, Imagine, insomma, non canto, non regge tu, mi sembra giusto, visto che era uno degli anti-identitari, e ora non perché io sia un hippie o cosa, ma insomma, ci sono stati momenti in cui c'era una freschezza nel pensiero, una sensazione per cui le identità, che poi funzionano per l'economia e il potere, siamo tutti della Coca-Cola contro la pece, cioè creare lo spirito di corpo. In realtà questa è una cosa mostruosa. È vero che l'identità è un moltiplicatore di energie, il gruppo serve per catalizzare, orientare lo sguardo in una certa direzione creando l'altro, ma è il noi che fa paura. Il noi che è sempre frutto di un artificio, di un malinteso. Io posso avere un'affinità molto maggiore con uno che sta a 1000 chilometri da casa mia che con mia sorella, ma che vuol dire? In un mio documentario ho fatto delle interviste Peraltro poi mi sono molto pentito perché l'avevo fatto su scala appunto identitaria, ho dovuto fissare un rumeno una barca pensando, capisci, che così rappresentanza della barbarie, no? Mi serviva un rumeno, andavo da un rumeno. E ho intervistato tre fratelli marocchini, sorella e due fratelli, e quindi stessa famiglia, stessa città, stesso viaggio, finiti in Toscana in un paesino, tutti e tre ristoratori in un posto, e c'era lei, entusiasta dell'Italia, un fratello che era depresso, e il terzo che odiava gli italiani, quindi non è che erano i marocchini, ognuno di loro rappresentava una gamma, uno spettro amplissimo. Ma cosa vuol dire quindi che la lingua ti rappresenta o che la cultura ti rappresenta? E poi c'è una banalità, un luogo comune, le culture vanno rispettate. No! Le culture vanno tutte criticate, tutte. Perché devo rispettare la cultura? Ma cos'è? Onora il padre della Bibbia? Ma mio padre magari è un pedofilo, un idiota, è uno che non mi interessa, cioè non ho nessun feticcio per la cultura. Le culture vanno tutte superate, criticate perché non abbattute. Libertà dalla cultura. D'altra parte, la parola libertà, cosa significa se non libertà dalla cultura? Cioè, perché da cosa ci vorremmo libertà? A parte le manette, voglio dire, la libertà. La libertà non esiste, ma è un orientamento dello sguardo. È un processo di liberazione, di autodeterminazione. L'ONU si fonda sull'autodeterminazione dei popoli. È una cosa ridicola. I popoli non esistono. Chi parla di popolo va immediatamente, capito, sputacchiato, direbbe Nietzsche. Cioè, che vuol dire popoli? Io oggi mi batto per i palestinesi, per l'autodeterminazione palestinese, domani per le donne palestinesi, dopodomani per gli omosessuali palestinesi, poi per i palestinesi cristiani, poi per i palestinesi... L'autodeterminazione è della persona. Cioè, se io mi batto, agisco per tutti e per nessuno. Appunto, il pensiero etnico oggi dice non bisogna andare in Amazzonia perché si contaminano gli... Ma cos'è, una riserva di animali? Oppure uno ragiona per gli italiani, si muove... Ma qual è il denominatore comune che dovrebbe... Cioè, creare un'identità per cui quello è diverso da te. Uno ragiona di principi e si relaziona fondamentalmente con se stesso e con le idee che ha e poi con il resto del mondo. Trovo profondamente, diciamo, mi sento, perché poi qui sono state fatte delle analisi, dico così, cioè, scientifiche, ma nel senso che poi c'erano degli aggettivi, dei sostantivi che mi lasciavano intendere, per esempio la nostalgia per certe identità, perché sono lì. Io invece dico attenzione, è un pericolo, non c'è nessuna ragione per considerare che noi possediamo una cultura, ma noi siamo posseduti da una cultura, è la liberazione da questa stessa cultura, perché ciascuno possa autodeterminarsi. Quindi questi processi politici, ripeto, totalitari, che utilizzano poi un linguaggio sempre retorico, sempre inglobante, in qualche modo è profondamente suggestivo, che poi spesso potremmo anche analizzarlo, si fonda sulla paura dell'altro, su definizioni sempre approssimative, e che alla radice, comunque, attenzione, alla radice serpeggia sempre in fondo, se vai fino in fondo, qualche cosa che ha a che fare con la genetica, perché gira, che ti rigira poi in maniera sempre grossolana, ovviamente infondata, però si finisce sempre lì, perché se vai proprio alla radice ultima si sente il sapore di questo. Io dico che la cosa che si dovrebbe fare è ragionare proprio sul nostro rapporto con l'identità. Il privilegio della nostra, dei privilegiati di questo mondo, insomma, è di poter promuovere un'idea di autodeterminazione. Io vorrei concludere su quello che possiamo definire essere un impegno, diciamo, intellettuale, artistico, creativo, scientifico, su quello che è in qualche modo il rapporto che dovremmo avere con i cosiddetti oppressi o oppressori, o comunque relazionarci con quelle che ci paiono delle ingiustizie nel mondo, come quando per esempio qualcuno nega in nome di un'identità un'altra identità. Io credo che si debba decostruire proprio il linguaggio, smontare i codici e suggerire delle sensibilità prospettiche, io le chiamo così, profondamente diverse nel nostro modo di vedere le cose. Quindi se partiamo da principi profondamente non identitari, non possiamo dire io parteggio per, oppure sostengo e difendo il diritto di chi rivendica un'identità contro chi gliela contesta. Se non credo nell'identità, io sono naturalmente a favore della difesa sempre e comunque dei diritti umani e dell'autodeterminazione di tutto. Se mi voglio mettere il burka, me lo metto. Se invece non me lo metto, qualcuno mi piglia allegnato nella testa. Io non è che difendo quella cultura. Dove finisce? Ciascuno deve potersi autodeterminare. Quindi libertà dalla cultura, libertà dalle lingue, libertà dall'identità. Se questo intervento l'avessimo messo all'inizio, ovviamente il dibattito sarebbe stato completamente differente, però credo che sia stato questo lo spirito di avere anche, come dire, qualcuno che destrutturasse completamente le categorie e i concetti che sono stati espressi negli interventi precedenti. Abbiamo una mezz'oretta, quindi qualche possibilità di dibattito, o comunque di citare magari qualche elemento in più di discussione c'è. Io mi sono preso vari appunti. Intanto si diceva che l'identità è un qualcosa che viene imposto e in qualche modo è una finzione, un concetto su cui sono d'accordo. Il problema è che la finzione funziona e quindi basta negare la finzione per decostruire, per... No, e questa è una domanda che faccio a tutti. Un'altra domanda. Quando io sono andato nei Paesi Baschi negli anni 80, ho cominciato a fare la mia tesi nei primi anni 90, e ho cominciato a fare interviste a chi andava a scuola di basco per adulti, a chi insegnava l'euskera nelle euskalteghe, nelle scuole che il movimento, così come fa in Bretagna e in altri territori, dedica alla alfabetizzazione di chi ormai è fuori tempo massimo, ma vuole o recuperare, se è basco e non ha avuto la possibilità di alfabetizzarsi nella lingua madre, o acquisire, se ad esempio è un immigrato di un altro territorio della penisola iberica, addirittura del Congo, delle Filippine, come ne ho conosciuti tanti, e gli ho fatto delle domande. E alla fine emergeva, come dire, una strana differenziazione con quella che invece era la definizione classica dell'identità che io trovavo poi sui saggi, sui libri di chi aveva fatto ricerche in quegli anni, poco prima o qualche anno prima. Io, da quello che avevo letto sui libri, sapevo che per i baschi essere basco voleva dire avere i famosi 8 cognomi, avere il fattore RH negativo o comunque, diciamo, essere legato alla genetica, come giustamente si diceva prima, fattore che spesso è nelle rivendicazioni delle identità etno-regionali o etno-nazionali. Dopodiché, parlando con gli attori concreti, con le persone in carne ed ossa, mi accorgevo che chi dedicava tempo, energie, sforzi alla lingua o per insegnarla o per apprenderla definiva basco chi acquisiva o aveva la lingua o chi viveva e lavorava in un certo territorio. Quindi, paradossalmente, dal punto di vista dell'analisi, diciamo, antropologica, socio-antropologica, in qualche modo si definiva in maniera primordiale l'identità dei nazionalisti, dei culturalisti, mentre invece gli attori sociali definivano se stessi e l'identità a cui si richiamavano in maniera civica, cioè esattamente il contrario di quella che era la definizione, diciamo, dei saggi e dei libri. La questione delle scuole dei germi, no? Che prima si citavano per la Bretagna. Io vi ricordo che il fascismo in Italia negli anni 30 e 40 lanciò un revival mai conosciuto in Italia del folklore, delle musiche popolari, cosa che, vista da un punto di vista generale, può sembrare una enorme contraddizione con una struttura statale che mandava gli italiani a lavorare a Bolzano cercando, no, di etnicizzare in senso italiano quella regione vissuta come straniera, perché tale era dal punto di vista storico, perché conquistata pochi decenni prima, cioè si facevano le due cose in contemporanea, cosa che hanno fatto ad esempio lo Stato francese in passato, altri paesi. In quella museificazione delle identità, che è caratteristica spesso di chi vuole mantenere appunto le lingue per studiarle, per rappresentarle magari una volta l'anno, ma che non gli vuole dare il rango di lingua di comunicazione quotidiana, di lingua viva, cosa che spesso, no, oppone le politiche linguistiche dei governi, come prima veniva citato da Zoe, ha invece la pratica militante quotidiana dei movimenti che, siccome considerano la lingua uno strumento di comunicazione, non un feticcio, ma uno strumento di comunicazione, deve essere veramente veicolare, deve veramente funzionare nella vita concreta. Quindi insomma, queste sono delle... E poi una chicca. Qualcuno che intervistavo mi diceva: io sono a favore della normalizzazione dell'euskera, sono a favore della ufficialità dell'euskera, del basco, però una volta che tutti coloro che vivono qui parleranno euskera, non si perderà la nostra identità, la nostra differenza, la nostra particolarità? Una cosa io ho chiamato gelosia euskaldun, cioè il fatto che l'estensione della lingua in qualche modo porti a una sorta di perdita per chi ce l'aveva già, per chi in qualche modo si sforza per conservarla, per riprodurla, per non farla perdere. Io spero ci si arrivi a, questa, a questo sentimento, perché da quello che ci dicevano, insomma, non siamo a quelle condizioni. Quindi io le butto là queste cose, perché mi sembrano delle questioni che sono emerse finora tra le tante altre. La prima, che riguarda il fascismo, quando Mussolini creò il CNR, cioè il Consiglio Nazionale della Ricerca, erano gli anni dell'autarchia, mise a capo un militare che si chiamava Badoglio, perché l'idea era di creare una scienza, se voi andate a vedervi l'atto costitutivo, italiana. Cioè, la scienza è per definizione, diciamo, patrimonio dell'umanità, il sapere, la scoperta, però voleva creare una scienza e applicazioni scientifiche italiane affinché l'Italia non dipendesse da scoperte scientifiche straniere. A tal punto, ecco, il fetiche identitario può arrivare, per questo io lo considero romantico fascista. Ma vorrei però obiettare a quello che dicevi tu, basta negare la finzione, eccetera. Va bene, possiamo anche dire basta negare la finzione identitaria. Io però vorrei suggerire la lettura di alcuni libri a tutti voi, di un autore che, appunto stavo per dire l'origine indiana, comunque vive in Inghilterra, si chiama Amartya Sen. Secondo me è importante che si legga un libro che si chiama Identità e violenza, che stabilisce proprio un nesso diretto tra l'identità, quindi il feticcio dell'identità, il culto dell'identità, e la violenza nel mondo. Vorrei suggerire anche la lettura di un altro libro, di Amin Maalouf, un libro che si chiama Identità che uccidono, che ammazzano, è un libro molto interessante che parla dello stesso tema. E poi vorrei suggerirvi la lettura anche di due libri di Francesco Remotti, uno si chiama Contro l'identità, è molto interessante, e un altro si chiama L'ossessione identitaria, che ha un incipit fantastico, dice sembra quasi che oggi se uno non ha dell'identità non esiste. Poi vi consiglio il già citato di Bauman, Intervista sull'identità, e di Raul Castells, un filosofo spagnolo, Il potere dell'identità. Ma soprattutto volevo dire una cosa, che un dibattito sull'identità è vero che non c'è, però in parte ci sono delle avvisaglie. Nel 2005 nella regione in Toscana, a Firenze, è stata fatta una mostra che si chiamava Identità e nomadismo, e l'assessore alla cultura, che era una signora, non ricordo il nome, nel suo articolo dice proprio, inizia così, l'identità non esiste. Dopodiché poi ci sono tanti articoli e c'è stata una mostra su questo. Poi, vabbè, la Toscana per me scade quando dice terra di popoli e di culture, eccetera, eccetera. Però ecco, voglio dire che non è vero che c'è, ecco, un pensiero organico su in relazione al rapporto che dovremmo avere nei confronti dell'identità. Forse in Italia è più modesto. Un altro libro che ho citato prima e di cui suggerisco la lettura è appunto il libro di Anna Maria Rivera, L'imbroglio etnico. E poi c'è comunque un antropologo a Genova piuttosto interessante, si chiama Marco Aime, che ha scritto un libro che si chiama Eccessi di culture, ma in particolar modo, io ce li ho nello zaino, ne ho portati alcuni, in Scandinavia c'è un dibattito molto acceso sulla cultura, sull'identità, sui confini, sul tracciare confini, i confini sono mentali, di cui, sì, ecco, di cui poi chi vuole, insomma, faccio vedere, e chi lo desidera, io lascio l'email e mando delle bibliografie di riferimento, diciamo, alle quali mi sono ispirato, sono 50 libri che di cui posso consigliare la lettura per chi volesse poi approfondire il tema. Scusa, perché mi ero dimenticato di dirlo prima. Chi vuole? Non so se vogliamo fare qualche altra domanda, poi lasciare il tempo, magari allora di dire qualcosa. Sì, allora, se c'è qualcuno di voi vuole intervenire, bene, non abuso del mio ruolo di ospite. No, lo stimolo, appunto, sono anche molto contento di comandata perché sono stati anche raccolti vari stimoli. L'idea che c'è dietro, appunto, quella di, attraverso una discussione scientifica, è quella anche di porre all'attenzione quelli che sono i luoghi comuni sull'identità, che nel discorso il 90% delle persone, finché non si trovano coinvolti in un conflitto identitario, neanche se lo pongo il problema dell'identità, a meno che poi quando sono sull'autobus e si trovano l'immigrato che ha il colore della pelle diverso, incomincia a pensare all'immigrato puzza, però non se lo pongo il problema dell'identità. Quando poi l'identità non è un elemento patologico di per sé, ma è fisiologico, vuol dire sociale, la politica viene da polis, cioè la costruzione di un noi. Io mi trovo con una persona, condivido uno spazio fisico, che è anche spazio sociale, costruisco, quindi invento, ma costruisco una concezione di noi, perché devo cooperare o confliggere con quest'altra persona perché abbiamo dei problemi individuali e comuni da risolvere collettivamente. Questa è la politica. Robinson Crusoe aveva bisogno di venerdì per essere un essere sociale. E finché non c'era venerdì, lui non si poneva il problema di un nome, di un'identità. L'identità di classe: io lavoro con una persona vicino a me e scopro che ho degli interessi comuni, poi questa identità in sé deve diventare per sé, quindi costruita come progetto politico. L'identità però non è un qualcosa di oggettivo, è un qualcosa di costruito. La cultura non è un dato oggettivo che mi si impone, come diceva Norbert Elias, così mettiamo in mezzo pure un sociologo che fino adesso sono tra antropologi e politologi, i sociologi sono stati un po' assenti. Norbert Elias diceva: un individuo rispetto a una cultura è allo stesso tempo conio e moneta. Noi siamo allo stesso tempo prodotti di una cultura, perché siamo nati in un contesto culturale, ma siamo anche produttori, perché assimiliamo certi contenuti, alcuni li accettiamo, alcuni li neghiamo e alcuni li produciamo, e quindi vengono trasformati. La cultura è un campo di conflitto, e questo avviene soprattutto nei luoghi di conflitto etno-territoriale. Poi vorrei dire anche il perché ho detto etno-territoriale, perché c'entra con questa riflessione. I vari attori coinvolti attraverso il conflitto, quindi dandosi anche le botte non solo materiali ma anche culturalmente e simbolicamente, dicono: quali elementi definiscono questo essere noi? Cosa definisce questo nostro noi? E nel corso del tempo gli elementi, i marker come vengono definiti in antropologia, gli elementi che definiscono, vogliono oggettivare, anche se di fatto sono costruzioni soggettive, questo noi, cambiano nel corso del tempo. Fine Novecento era la genetica, infatti, e non a caso che tutti i movimenti sorti in quel periodo, nel caso basco ma anche in altri contesti, utilizzassero il concetto di razza, che non era, al tempo era scientificamente legittimato. Poi dopo la seconda guerra mondiale e l'obbrobrio fatto con il concetto di razza è stato superato e nuovi elementi sono stati prodotti. È un continuo processo di costruzione e ricostruzione. E qui la provocazione interessante è l'autodeterminazione individuale. Il concetto di individuo è il prodotto di un processo di costruzione culturale. L'individuo è il frutto di una cultura occidentale di matrice greco-latina. In altri contesti culturali magari c'è un'altra concezione. Quindi anche qui, forse, e questa è la mia controproposta, su cui magari è interessante anche dibattere, più che contrapporre l'io e noi, sarebbe utile pensare che noi siamo sia io che noi, e questo io e questo noi sono un continuo divenire, e poi bisogna capire poi quale io e quale noi ci può piacere, quale io e quale noi è più in linea con le nostre, con la nostra gerarchia di valori, individualmente e collettivamente. Io sono io, ma non sono solo io, sono anche membro di vari noi, e schizofrenicamente posso agire in queste varie sfere. Perché territorialità? Come dico nell'introduzione, che poi se finalmente riuscirete ad entrare in contatto con una copia fisica della rivista, capirete anche il perché. Nella letteratura, nella sociologia, nella scienza politica relativa ai conflitti nazionali, si usa il termine regionalismo o nazionalismo, etno-regionalismo, etno-nazionalismo, in maniera quasi escludente. Per esempio Carlo, che si è formato soprattutto sulla letteratura di tipo francofono, usa spesso il termine regione, perché lì parlare di nazione per qualcosa che non sia legato allo Stato è qualcosa di forte. In letteratura anglosassone invece si usa molto più semplicemente il termine etno-nazione. Io ho ripreso da Rudolf e Thompson il termine di etno-territorialità, appunto per integrare le varietà di forme che possono prendere queste mobilitazioni. C'è un legame all'etnos, che è appunto l'elemento culturale definito in senso no, però non oggettivante, non primordialista, ma come riferimento alla cultura e alla costruzione della cultura, e alla territorialità, perché questi movimenti hanno tutti una costruzione, una delimitazione di un territorio che considerano come proprio, o quantomeno si pongono come difensori di un determinato territorio. Poi nei diversi contesti, in base a quella che nella sociologia dei movimenti viene chiamata la struttura delle opportunità politiche, questi movimenti possono assumere espressioni regionaliste, cioè rivendicare solo autonomia, o indipendentiste. Ideologicamente possono associarsi a posizioni di destra o di sinistra, perché dipende appunto dai contesti in cui si sviluppano e nei diversi tempi in cui si sviluppano. Quindi credo che quello che abbiamo voluto fare con questo numero monografico, proponendo il termine etno-territorialità, è anche contribuire a questo dibattito, dando un tema che sia meno influenzato dai giudizi di valore, perché uno non è obbligato a dire regionalista buono, nazionalista cattivo. Lo Stato è nazionalista, le minoranze sono nazionaliste, e se per sé il termine nazionalista non vuol dire per forza di cose negative o per forza di cose positive, e con lo stesso diversi movimenti e conflitti che appartengono alla stessa origine, però che si esprimono in forme anche molto diverse tra di loro, con contenuti molto diversi. Quindi l'obiettivo era quello di inglobare questa varietà di forme di espressione. Non so chi vuole dire qualcosa. Io purtroppo sono entrato molto tardi, mi sono perso gran parte di questi interventi. Devo dire che mi è piaciuto particolarmente quello conclusivo, perché mi identifico nelle sue parole. Cioè, la legge fondamentale del nostro Stato, all'articolo 13, che siamo tutti uguali, indipendentemente da tutte le nostre diversità, sesso, religione, credo politico, cioè ciò che ci crea identità, cioè l'essere maremmano, alto, biondo, etero, ricco, di sinistra, tutto quello che crea identità. Quindi noi siamo cresciuti, ricordate, ognuno di voi da bambino, la prima differenza è tra adulto, bambino, maschio e femmina, danno il grembiule rosso o blu. Poi crescendo vedi che prendono in giro quello ciccione, quello con i capelli rossi, le differenze, e noi siamo impregnati di questa cultura della differenza che inizia a farci del male sin da bambini. Ognuno di noi da bambini si sorprende perché va a vedere la partita di calcio di Rocca Secca contro Rocca Camuccia, c'è le due fazioni, poi va a vedere l'Aquila contro Pescara, le due fazioni più grandi, poi questo sempre di più, i campionati mondiali sono lo scontro civile di mondi, di nazioni. Noi siamo impregnati in questa cultura della differenza, dell'identità. Quindi la soluzione sarebbe tornare al passo, ritrovare dentro di noi il fanciullino che vede tutti uguali. Perché io devo entrare in una categoria tipo l'orientamento sessuale? Magari a 16 anni ero super etero, adesso invece mi piacciono quelli che sono maschi ma si travestono, ma sono passivi, ma vorrebbero essere attivi. Guardate, solo nel sesso, per esempio, non voglio entrare in volgarità, è facile scivolare, quante sono le sfumature tra i due eccessi, il super etero e la super etera, che generano la prole. Ma le miliardi di differenze, e quindi la classificazione molto pericolosa che portato all'omofobia, quindi i colori della pelle, nati in Sicilia da progenitori normanni, super biondi che si sentono super siculi. Io quindi sono estremamente d'accordo con le parole di Gianmarco, che è anche un amico, e mi dispiace di non aver assistito tutto lui, diciamo, che mi dispiace, avrei voluto sentire tutti gli altri interventi. Grazie. Volete dire qualcosa? Sì, grazie Gianmarco del tuo intervento, cioè, sono d'accordo, e sono d'accordo, cioè, il concetto dell'identità non si può negare, però bisogna usarlo come concetto analitico, quindi sì, mi dispiace, la mia presentazione è stata molto semplice parlando solo delle dinamiche in favore del Vasco, eccetera, però è vero che in qualunque analisi di questo tipo bisogna ricordare che questo concetto è il dove, cioè, l'identità è una cosa che si fa solo grazie al senso, solo in riconoscimento, è tutto relazionale, quindi è un logos di relazione di potere, quindi bisogna prendere sempre questo in conto. Ma quindi, cioè, ti rispondo anche, cioè, hai detto cultura e apertura e autodeterminazione dell'identità, eccetera, l'identità non esiste, però è lì che cadiamo un po' nella riificazione dell'identità, quindi bisogna anche sempre ricordarsi di scostruirle, cioè di non parlare sempre dell'identità è questo e non questo. Cioè, non è un'accusa che lo fai, però sempre ricordarsi questo quando Sì, allora vorrei replicare entrambi gli interventi. Il primo sull'autodeterminazione, noi, l'io e che rapporto. Vorrei citare, diciamo, il primo, considerato in filosofia cosmopolita, Diogene il Cane, il quale, scoppiata una guerra ateniese, fu contattato dai suoi concittadini che gli dissero: mio caro, ti abbiamo educato, dato una lingua, nutrito, ti abbiamo insegnato le buone maniere, ti abbiamo dato tutto, adesso c'è da fare la guerra. E lui, primo obiettore della storia, disse: non sono ateniese fino a questo punto. E quindi, voglio dire, l'autodeterminazione è un valore, questo era un disimpegno, era non essere un buon cittadino? No, attenzione, perché le strutture sociali, poi abbiamo Foucault che ci insegna che il linguaggio è appunto frutto del potere, con le stesse categorie sociali. Quindi, voglio dire, lui ha dato un messaggio politico fondamentale di profondo impegno, di profonda altezza, quindi bisognerebbe vedere il contesto, ma diciamo per il momento sportivamente lo prenderemo così. Il secondo discorso, che però io non condivido, è quello di dire negare l'identità, oppure comunque cercare di costituirla, alla fine però riproduce qualche tipo di identità. Se ho capito bene questo dicevi, e io questo lo contesto completamente. Diciamo che forse il senso più semplice di tutto il mio intervento era proprio voler dire che questo secondo me non è vero. È come dire che l'ateo in fondo è un credente, perché no, c'è una profonda differenza. Cioè, se tu mi vieni a dire io sono questo e io ti dico beh, insomma, fino a che punto, eccetera, eccetera, non per il fatto che, o tu, qualcuno mi viene a dire ma tu sei un ebreo omosessuale, no? Io potrei comunque metterlo in discussione per le infinite sfumature, e per il fatto di mettere in discussione non è che sto ricreando un'identità. Su questo, quando io dico che, e sono, io penso che invece la cultura della differenza sia preziosa, ma bisogna vedere in che modo. Io non penso che nel mondo esistano, come dicono gli antropologi, sono 937 culture, 1031 lingue, o non so cosa, cioè, penso che ci siano 6 miliardi di persone, ognuno dei quali è un veicolo, un portatore di spirituale, materiale, personale, e quindi penso che la risorsa sia quello di riconoscere la differenza tra me e mio fratello, no? Tra me e il cinese, o tra me o tra i 3 marocchini. Quindi non è una proposta, diciamo, di lettura che vede un mondo omogeneo. Un'identità forse la riconosco, quella umana, ecco, anche se un vegetariano poi potrebbe metterla in discussione, potremmo aprirci, insomma, su tante riflessioni, ma fondamentalmente, ammesso che le altre siano in qualche modo tutte artificiali, non sono d'accordo sul fatto che comunque ci si debba convivere, e comunque bisogna adottare un linguaggio e un sistema di valori e di pensiero che si relaziona con l'identità. Si può anche, magari in una minoranza, magari non io, perché magari non ho talento, sono mediocre, non so, però si può anche cercare di destrutturare il linguaggio, non è impossibile, c'è chi lo fa. Io appunto vorrei consigliare bibliografia che vi ho detto, e quindi mi sembra che non è vero che le cose sono date e quindi ce le dobbiamo tenere. Esistono tante persone che mettono in discussione con molte delle categorie che qui sono state utilizzate in una maniera così, io trovo, lo dico sinceramente, un po' autoritaria, un po' estremista. E tra l'altro il fatto comunque di mettere un po' in discussione tutto, io lo considero un atto di moderazione, non un atto di estremismo, ecco, perché considero comunque l'identità alla fine sempre un po' estremistica. Quindi quelli che mi dicono sì, vabbè, ma scalda il cuore, il senso d'appartenenza e il noi comunque accende sempre una qualche rassicurazione, io dico sì, ma è una concezione adolescenziale. L'adolescente che si mimetizza, cito qui Eco, Apocalittici e Integrati, cioè gli integrati, chi vuole stare nel gruppo e si pensa che sia sano, vabbè, ha una certa età in cui sta crescendo, certo gli fa bene stare nel gruppo, si veste come gli altri, si mette l'orecchino, il piercing, però si spera che a 18 anni, a 20 anni scopra la propria individualità, si liberi di questa identità collettiva e di gruppo, si emancipi e scopra la sua unicità, la sua specificità, si autodetermini, si allontani dall'amica o dall'amico che ti ha preso forse come feticcio il gruppo, cercando sempre di stare dentro. C'era una pubblicità negli anni 70 bellissima, si chiamava Esci dal gruppo, ma questo non è in alcun modo un proclama per l'individualismo o contro la solidarietà o addirittura per l'aggressività nei confronti dell'altro, ma tutt'altro, esattamente l'opposto. significa non dividere il mondo in 937 culture o 12.006 e semplicemente considerare che esistono 6 miliardi di abitanti. Suggerisco di studiarsi le vicende di Diogene e di altri che hanno fatto questo. E vorrei citare anche il fatto che nella storia europea, ma mondiale, ci sono state persone, che si chiamano filosofi, la maggior parte dei quali hanno parlato all'umanità, non è che si rivolgevano agli abitanti della propria città, e hanno evocato che il comune, sono andati alla ricerca di quelli che sono i comuni denominatori dell'umanità stessa per ragionare intorno all'essere, all'uomo. E cito allora qui per tutti proprio un libro di Heidegger che si chiama Identità e differenza, è un libro molto interessante, o se no anche l'opera omnia di Nietzsche. Interrogo quale sono, non voglio dare fare delle considerazioni prescrittive, normative, quasi valoriali, perché mi sono limitato sempre a studiare con l'occhio, diciamo, scientifico il più possibile i fenomeni che ho osservato. Però a me sembra quasi che voler negare l'identità, il concetto stesso di identità fino alla fine, significa quasi voler riscoprire un'altra identità. Perché poco fa tu dicevi, è la persona che a 18 anni scopre di essere un individuo a sé stante, unico, esce dal gruppo perché riscopre un'identità sua. E quindi se c'è qualcheduno che le vuole mettere assieme le identità e qualcheduno che invece se ne vuole staccare, temo che ci sia più un effetto moltiplicatore delle stesse identità piuttosto che aggregativo nel momento stesso in cui si vogliono limitare i problemi a cui tu ti riferivi, che sono condivisibili in larghissima parte, Gianmarco, ma nel momento stesso in cui noi diamo quasi una concezione negativa di identità. Quando... spesso mi capita di parlare nella comunità scientifica, ma sono robe, sono cose pericolose, etnico, identità, sono cose pericolose che ci fanno ricordare pagine brutte della storia. Beh, non è sempre così. E soprattutto bisogna vedere che tipo di valore e che tipo di significato noi diamo a quelle parole. E anche i fenomeni sociali o politici, nel mio caso, che cerchiamo di studiare e di analizzare, non sono mica sempre fatti di coloro che negano l'esistenza di altri, perché c'è molto spesso ci sono, è vero, è verissimo, e possiamo fare tanti esempi di culture europee che tendono a racchiudersi in se stesse e a negare, diciamo, stesso gli altri, è vero, però è vero anche che ci sono delle culture minoritarie che invece sono assolutamente aperte verso gli altri, e non solo da un punto di vista politico, ma proprio da un punto di vista umano e sociale, ma umano prima che tutto il resto, proprio perché non si vuole omogeneizzare tutto nella stessa razza umana, che, come dicevi tu, è un concetto bellissimo, ma poi nel momento stesso in cui io non trovo il mio spazio, tutti hanno un loro spazio, e quindi a quel punto la contaminazione potrebbe essere più difficile. Loro semplicemente ti dicono, noi ci reputiamo appartenenti a una, e aventi una nostra identità, ma con questo non neghiamo quella degli altri, con questo non vogliamo che la nostra specificità debba prevalere rispetto agli altri. E io penso che anche un ragionamento di questo tipo, No, mi riferisco alle regioni che noi studiamo. Cioè, ci sono delle convinzioni politiche. Pluralis maiestatis in generale. Non di tutti, perché ti ho appena detto che ci sono delle regioni che sono invece accomunate da altri tipi di pensieri. Ora, non voglio fare di tutta un'erba un fascio, ma probabilmente adesso le Fiandre non avrebbero lo stesso ragionamento, non prenderebbero lo stesso ragionamento che stiamo prendendo noi adesso, ma ne farebbero un altro. Però a grandi linee, voglio dire, bisogna anche stare attenti a definire o comunque a classificare quasi come degli succedanei del terrore queste realtà, che invece andrebbero conosciute meglio, innanzitutto da un punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista proprio generale, perché altrimenti si commette l'errore, e nel negare l'identità, secondo me, si sta facendo il ragionamento di crearne delle altre. Allora, io, da quello che so, abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Oggi, insomma, sono stati citati dei concetti che sono interessantissimi, sono attualissimi, nonostante spesso vengano descritti come obsoleti, perché fanno parte poi delle questioni non che qualche ricercatore o qualche scienziato si pone, ma che le persone normali, che come diceva giustamente Adriano, non si pongono il problema finché non gli capita di doversi ne occupare anche rapidamente, ma purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, ciò succede sempre più spesso e sempre in più territori. Io prima citavo il caso appunto di comunità che scoprono se stesse e si ritagliano un territorio a partire da un conflitto con uno Stato che, pur parlando tutti la stessa lingua, pur avendo tutti la stessa origine, tra virgolette, genetica, nel momento in cui impone delle politiche, delle scelte, diventa in qualche modo altro, altro da sé. Quindi magari questo può essere oggetto di un ulteriore approfondimento, e lo Stato risponde, come dire, nello stesso modo, con la militarizzazione, con la criminalizzazione, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, sono questioni attualissime, per questo credo che sia stato importante oggi indagarle. Quindi un ringraziamento all'Associazione Culturale Euskara per aver ritagliato dentro la settimana vasca di quest'anno questa iniziativa. Naturalmente l'ho data prima alla rivista Partecipazione e Conflitto, perché penso che siano due concetti interessanti, perché mettono insieme l'identità personale individuale e quella collettiva, che non necessariamente sono due identità in contrasto e in contrapposizione. Quindi vi ringrazio, e non so se ci sono qualche iniziativa ancora da citare e ricordare. No, sì, la settimana basca, come anzi il dicembre basco è stato di fatto, no? È spalmato su più settimane. La settimana lunga. Sì, il settimanone basco di Roma di quest'anno prosegue anche la prossima settimana, con giovedì 16 con la proiezione del documentario The Shoot an Elephant, un documentario relativo all'occupazione di Gaza e della Palestina, appunto per tornare ai temi delle mobilitazioni, dei conflitti etnoterritoriali, che sarà al Pigneto alle 18.30 officine, poi comunque sul nostro sito www.oscara.it potete guardare e trovare tutte le informazioni necessarie. Poi il venerdì e sabato 17 e 18 ci sarà un momento di poesia e di musica con poeti italiani e baschi che appunto condivideranno le loro creazioni, e il cantante Ciapi San Sebastiano che appunto farà un recital di poesia e di musica sabato 18. Per quanto riguarda, passando all'altro mio lato della mia identità schizofrenica, alla rivista Partecipazione e Conflitto, per chi fosse interessato al numero monografico, spero che di più a qualche giorno arrivi il famoso pacco con le 30 copie e mi potete contattare adesso mi chiedete la mail, il telefono o attraverso l'associazione, e farò in modo tale di darvi una copia. Le copie sono a pagamento, perché visto che gli editori non se la passano benissimo, quantomeno così ci dicono a noi, non possiamo elargire copie come vorremmo. E poi, visto che il resto della redazione se no mi picchia se non lo faccio, vi ricordo che le iniziative culturali non campano d'aria, quindi se qualcuno di voi volesse fare l'abbonamento a Partecipazione e Conflitto ne saremmo particolarmente grati, e questo consiglierebbe di continuare a dare spazio anche a giovani ricercatori precari come Carlo e altri che hanno pubblicato nella nostra rivista, e quindi cercare di mantenere qualità e possibilità di fornire spazi per dare spazio ai ricercatori, a delle ricerche, anche creare movimenti di confronto sui temi di ricerca. Quindi attraverso il sito dell'editore Franco Angeli cercate Partecipazione al Conflitto, vi spiego tutte le modalità per poter fare l'abbonamento. Questo è fatto. Grazie, alla prossima iniziativa.